Tre funerali, un matrimonio e una nascita. Leggo nella Bibbia, in Ruth capitolo 1, versi 3 a 5. Elimelech, marito di Naomi, morì e lei rimase con i suoi due figli. Questi sposarono delle Moabite, delle quali una si chiamava Orpa e l'altra Ruth, e abitarono là per circa 10 anni. Poi Malon e Chilion morirono anch'essi. E la donna restò priva dei suoi due figli e del marito. Leggo ancora in Ruth, capitolo 4, versi 13 a 16. Così Boaz prese Ruth, che divenne sua moglie. Egli entrò da lei e il Signore le diede la grazia di concepire. E quella partorì un figlio. E le donne dicevano a Naomi: Benedetto il Signore, il quale non ha permesso che oggi ti mancasse uno con il diritto di riscatto. Il suo nome sia celebrato in Israele. Egli consolerà l'anima tua e sarà il sostegno della tua vecchiaia. L'ha partorito tua nuora che ti ama e che vale per te più di 7 figli. E Naomi prese il bambino, se lo strinse al seno e gli fece da nutrice. Nella vita non succedono solo cose belle. La Bibbia, essendo un libro che parla di cose concrete, reali, non ci risparmia quindi anche gli aspetti più brutti dell'esperienza umana, di cui la morte è senz'altro uno dei più difficili da affrontare. Il libro di Ruth comincia proprio con una famiglia distrutta, una donna, Naomi, che perde il marito e i due figli nel giro di poco tempo. Questo libro racconta proprio la storia di questa donna, il modo in cui Dio l'ha risollevata, riportandola da uno stato di assoluto sconforto ad uno stato in cui lei ritrovò la speranza, dalla tristezza alla felicità. Dio riportò il sorriso nella vita di questa donna, il cui nome Naomi significa mia dolcezza, ma la cui vita era diventata talmente triste che ella ad un certo punto del libro rifiutò addirittura il proprio nome, chiedendo di essere chiamata Mara, ovvero amarezza. Man mano che leggiamo il libro, infatti, scopriamo il modo in cui Dio, attraverso la nuora Ruth e poi attraverso Boaz, colui che diventerà il suo genero, ricostruì la vita di Naomi. Se il libro comincia con tre funerali, la perdita di un marito e di due figli, come abbiamo letto, il libro si conclude con un matrimonio, quello di Ruth e Boaz, e con una nascita, la nascita di un nipote per Naomi, che rappresenta anche la rinascita della sua famiglia e la speranza per il futuro. Chissà quanti di noi, come Naomi, si sono ritrovati ad un certo punto della propria vita a pensare di aver perso tutto ciò per cui valeva la pena vivere. Chissà quanti di noi ad un certo punto hanno pensato che le cose belle potessero appartenere solo al nostro passato. Eppure la storia di Naomi dimostra come tutto sia ricominciato proprio quando lei pensava che la vita fosse finita, anche grazie all'amore e alla disponibilità della sua nuora Ruth, una nuora che, come osservarono le sue amiche, valse per lei più di 7 figli. Proprio come una partita di calcio non finisce fino a che l'arbitro non fischia la fine, non dobbiamo pensare che la nostra vita sia finita finché non sarà veramente finita. Fino ad allora Dio può ancora darci gioia lì dove ci saremmo aspettati solo tristezza. Può ancora darci la possibilità di essere utili a qualcuno lì dove avremmo pensato di essere ormai inutili. Può darci un futuro lì dove avremmo creduto di poter solo vivere dei ricordi del passato. La vita di Naomi ricominciò proprio quando lei aveva pensato che ormai fosse finita. La ritroviamo gioiosa alla fine del libro con un bambino in braccio, che diventerà addirittura il nonno del re Davide. Una famiglia che sembrava senza futuro è diventata la famiglia da cui è disceso il re Davide, quindi il Messia Gesù. Perché non potrebbe essere così anche per te? Aspettati ogni giorno qualcosa da Dio e ricordati che la vita non è finita fino a quando il divino arbitro fischierà la fine.